Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tu puoi scegliere se restare o partire, loro no. Mi ha molto colpito questa frase che ho letto qualche tempo fa su un cartellone pubblicitario in metropolitana. Credo si riferisse a un documentario in cui si parlava di migrazioni di animali. Beh, sarò sincero, ascoltando le tante storie che ogni settimana ospitiamo in questo programma, qualche volta non riesco a eludere una domanda precisa. Ma i nostri giovani, gli under 40 che tanto hanno sudato per conquistarsi il famoso pezzo di carta, possono veramente scegliere se restare o partire? Il protagonista della puntata di oggi, ad esempio, a un certo punto della sua vita ha scoperto che lasciare l'Italia era diventata una necessità. Poco più che trentenne, con una bambina in arrivo, si è chiesto insieme alla moglie che futuro avrebbe mai potuto offrirle qui. Lui che paradossalmente un lavoro ce l'aveva, lavoro che si era però ormai trasformato in un cul-de-sac, senza prospettive. A quel punto, e torniamo al claim pubblicitario citato poco fa, non c'era più scelta, occorreva partire. Onestamente non mi faccio illusioni, sapevo che la vita di una persona povera era difficile anche una volta, ma almeno aveva speranze, poteva studiare, poteva sognare un futuro migliore. Oggi è difficile anche solo pensare di mandare un figlio a scuola, pensa all'università. E poi le università italiane ormai sono fuori da ogni classifica, non le considerano praticamente più all'estero. Sinceramente non è questione di far soldi, secondo me. Io non sono interessato a far soldi, quello che mi interessa è quel concetto che gli americani definiscono la ricerca della felicità. Antonino Pizzuto, 34 anni, è un ingegnere meccanico al lavoro in Danimarca per la più grande azienda produttrice di pale eoliche al mondo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura l'ottava puntata della nostra inchiesta sui numeri della nuova emigrazione professionale, ai nostri microfoni Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, consorzio per la ricerca del lavoro post-università per i laureati. Alma Laurea ha condotto in passato una ricerca sui dottori che emigrano, ecco i risultati. A 5 anni dalla laurea abbiamo all'estero un 5% dei laureati dell'anno, sono attorno ai 5.000 unità che troviamo a lavorare all'estero. Se limitiamo questa percentuale ai laureati italiani, restiamo attorno al 3-4%, con una quota che sta crescendo rispetto alla precedente indagine del 2001. Quindi c'è un tendenziale aumento di coloro che vanno a lavorare all'estero. Se non vado errato, la quota è quadruplicata praticamente. Praticamente quadruplicata, esatto. Quindi c'è sicuramente quella che chiamiamo, tra virgolette, fuga, che sta diventando di una certa consistenza. Voi avete anche chiesto a questi laureati qual è la loro condizione attuale all'estero. Cosa è emerso? Gli occupati all'estero dichiarano di essere in una posizione migliore di quelle che hanno i loro colleghi in Italia, di guadagnare di più, di essere più soddisfatti delle funzioni che vengono svolte, di essere impiegati in aziende che sono più concorrenziali a livello dico internazionale, che mostrano maggiore competitività. Dobbiamo tener conto che c'è una domanda di verifica che abbiamo fatto ai laureati che la dice lunga. La domanda è: ma torneresti a casa? Oltre il 50% dei laureati di cui intervistati a questa domanda risponde: non ci penso davvero. Presentato mercoledì dal governo il piano Diritto al Futuro, un insieme di azioni del Ministero della Gioventù rivolte alle nuove generazioni, il Ministero intende mettere in campo 216 milioni propri più altri 80 di cofinanziamento coi privati per azioni mirate, così le spiega il ministro Giorgia Meloni. Un ulteriore pacchetto di iniziative con il quale il Ministero della Gioventù investe complessivamente 300 milioni di euro su lavoro, casa, formazione, sostegno al talento, per dire che lo Stato crede nei ragazzi e nelle ragazze italiane. Per quanto riguarda il lavoro, l'obiettivo è creare 10.000 posti a tempo indeterminato per le under 35 con figli, grazie a bonus di 5.000 euro per le imprese che li assumono. Nel 2009 l'occupazione è calata in Italia per la prima volta dopo 14 anni. Lo scorso anno gli occupati sono scesi di 380.000 unità. I più colpiti dalla crisi sono stati i giovani e i precari, con contratti di lavoro a termine o subordinati. Lo afferma l'Istat nell'annuario 2010. E per il direttore generale dell'FMI Strauss-Kahn, la disoccupazione in Europa è cronicamente alta. C'è il rischio di una generazione perduta, distante dal mercato del lavoro e marginalizzata dalla società. È partito a metà novembre Idee al Futuro, il concorso per i giovani talenti dell'Abruzzo. Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori avranno la possibilità di contribuire allo sviluppo del territorio partecipando alla competizione per idee di Accenture. Info su idea360.it. È Luca Scarpiello, 26 anni, il nuovo vicepresidente del Forum Europeo della Gioventù, l'ennesima dimostrazione che il talento e le competenze dei giovani italiani, spesso non valorizzate nel nostro paese, hanno grande eco in contesti internazionali, così il Forum Nazionale dei Giovani.

ho scoperto che in Italia lavoriamo come i muli e per quattro soldi. Qui invece lavorano tutti a testa bassa dalle 8 alle 4, ma alle 4 e mezza scompaiono tutti, capi compresi. E questo veramente mi ha fatto rinascere. Ho molte più ore per me, per mia figlia, e sinceramente non riesco a calcolare il valore di questo. Antonino, domanda a diritto. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Guarda, bella domanda. Direi che in questo momento quello che vedo dall'estero è un paese meraviglioso e devastato. Direi che quello che bisognerebbe fare è mandare a casa tutta la classe dirigente per evitare di nuocere. E secondo me a questo punto un ricambio totale e brutale del sistema dirigente italiano non può fare più danni di quello che hanno combinato da ora a livello sociale, economico e formativo in questo paese. Sinceramente non puoi parlare di meritocrazia, di innovazione con una persona che sta seduta da 40 anni sulla stessa poltrona. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Antonino Pizzuto, ingegnere meccanico di 34 anni al lavoro nella più grande azienda di pale eoliche al mondo, in Danimarca. Antonino, una laurea a pieni voti all'Università di Catania, è stato protagonista di un primo espatrio verso Torino, dove ha vissuto quasi un decennio, poi, spinto da un contesto lavorativo che non lo valorizzava e motivato dalla nascita della figlia alla quale intendeva offrire migliori prospettive, ha scelto di espatriare con tutta la famiglia. In pochi mesi ha ottenuto un contratto in Danimarca, dove ora, parole sue, vive felice. Lo stipendio è raddoppiato, dopo due mesi era già stato promosso, il welfare state funziona, per non parlare del bilancio lavoro-vita privata. E ci raggiunge ora in linea da Dresda, dove si trova Angelo Richiello, ingegnere meccanico al lavoro in Austria, ma con molti anni di esperienza internazionale alle spalle. Oltre alle sue competenze ingegneristiche, Angelo ha sviluppato pure funzioni direttive nelle attività di merger and acquisition. Angelo, anche tu sei ingegnere meccanico, lo abbiamo detto, hai 41 anni, pochi più di Antonino. Pur avendo più esperienza internazionale di Antonino, vedi in qualche modo la tua storia personale e professionale riflessa nella sua? Sì, innanzitutto buon pomeriggio. Certamente ho ripercorso il mio spostamento verso nord insieme a lui. Lui è Torino, prima a Bologna, poi Milano, dove ho trovato un ambiente accogliente, devo dirlo, e anch'io ho avuto le stesse difficoltà ad emergere nel contesto in cui lavoravo, sebbene era un contesto multinazionale, e spingevo, sebbene le performance erano alte, alla fine ho deciso di emigrare. Ti definisci emigrato, non espatriato? Qual è la differenza? Beh, in realtà innanzitutto sono emigrato perché ho dovuto lasciare il mio paese per un lavoro migliore, per un lavoro che era più in linea con le mie aspettative e i miei progetti. Poi dopo dall'estero sono stato espatriato in altri paesi, ufficialmente sono un espatriato, ma se avessi lo stesso lavoro, lo stesso impiego, diciamo sotto casa, ci rimarrei volentieri, no? Data l'importanza della famiglia e il piacere di vivere nella propria comunità. Angelo, tu hai avuto modo di girare il mondo, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dalla Cina all'Austria. Visto da fuori, che effetto ti fa il nostro mercato del lavoro? È meritocratico? Premi ai migliori, quelli che hanno una visione internazionale, un curriculum internazionale? Temo che non lo sia affatto. Il nostro sistema non mi è mai parso meritocratico. Anzi, un curriculum internazionale, una preparazione che è al di sopra della media, spaventa le nostre aziende. Spaventa nel senso... Ma perché? Io non capisco perché. Perché? E perché? Perché secondo me un MBA, per esempio, addirittura un executive MBA, sono forme di preparazione o di visioni un po' più avanzate che spaventano la nostra piccola e media impresa, nel senso possono essere elementi di instabilità, cioè ma chi è questo, ma cosa si crederà di fare, eccetera. E invece può essere utile. Ma per Bacco ci mancherebbe, io a Milano ho conseguito un executive MBA al Politecnico di Milano e la mia vita è totalmente cambiata, cioè la mia visione del business da impiegato tecnico di sesto livello con la matita sulle orecchie sono diventato un manager internazionale, è stato l'integrazione della business school con la mia laurea in ingegneria ad aprirmi il mondo del business. Angelo, che effetto ti fa l'Italia nel suo complesso? Tu dici di sentirti ora più italiano di prima, proprio in virtù di questo amore per il tuo paese. Che effetto ti fa un paese da cui se ne vanno persino gli ingegneri, capitale umano allo stato puro? Abbiamo un futuro? Allora, io innanzitutto amo il mio paese, io amo l'Italia, sono profondamente italiano. Però ti dico anche che mia moglie non è italiana, cioè mia moglie è nata in un altro paese, molto lontano, quindi non parlo di nazionalismo eccetera, amo semplicemente il mio paese. Allora, io credo che l'Italia sia un paese fermo, è fermo, anche socialmente è fermo, cioè le classi sono ferme, non ci si sposta da una classe, diciamo, più bassa a una classe più alta, tutto è fermo. come diceva Antonino, tutti sono attaccati alle proprie poltrone da 40 anni o più. Il futuro ce l'abbiamo, ovviamente quello che è da cambiare è la classe politica è da cambiare, cioè per me, oltre a un determinato aspetto sociale di relazioni, eccetera, molto importante la politica economica. Antonino, hai una domanda per Angelo? Hai ricevuto in dono una bacchetta magica, ma hai un solo desiderio per migliorare un carattere distintivo del tuo paese. Cosa cambieresti dell'Italia per allinearla quantomeno alla competizione europea? Ma io migliorerei l'etica, cioè io vorrei uno Stato un po' più etico. No, dove si crede nei valori, si crede nello Stato, si crede nella solidarietà e ovviamente che ognuno fa il proprio lavoro, dal rispettare il semaforo per dire, a premiare i migliori, cioè la meritocrazia, io premio, io sviluppo appunto i talenti, i migliori. Speriamo. Grazie ad Angelo Richiello. E per chiudere, domanda di rito ad Antonino Pizzuto: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Guarda, che non si va via solo per i soldi, anche se onestamente sono un bel argomento, che le cose non sono facili ma sono spesso più semplici di quello che sembrano, e che se hai la giusta attitudine ogni posto è casa, e che alla fine l'Italia è uno splendido paese anche solo per trascorrerci le vacanze. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi torniamo ad aprire la consueta finestra con Italians Online, la più grande comunità virtuale e non di italiani all'estero. Ci spostiamo a Monaco di Baviera, terra di emigrazione tradizionale, ma anche di nuova emigrazione, come ci spiega Marco Cantagallo, coordinatore di YOL Monaco. YOL Monaco è nata all'incirca 7 anni fa su iniziativa di una persona che tuttora abita a Monaco, che ha l'esigenza, il desiderio di creare una comunità anche a Monaco di Baviera. Quanti iscritti avete adesso? Siamo più di 600 iscritti ufficiali, effettivi, persone che poi vivono la comunità di OL sono molti di meno. Monaco di Baviera è una città dalla emigrazione tradizionale, lo sappiamo, però quello che voglio capire è anche una città di nuova emigrazione, giovani professionisti? Assolutamente sì. Senza ombra di dubbio, tutta la comunità di IOL è frequentata da professionisti, dovremmo dire, o comunque di nuove immigrazioni, persone giovani, direi in gran quantità la parte maschile, molti ingegneri, molti ricercatori, e molte persone che scappano anche dall'Italia, bisogna dirlo. Stiamo proprio in questi giorni aiutando una persona che sta venendo su da Roma, un ingegnere che ha avuto una bella proposta qua da Monaco. Comunque quasi tutte le persone che frequentiamo, che frequentano il sito, sono persone che hanno un profilo educazionale molto alto e l'età corrispondente è piuttosto giovane, relativamente giovane, quindi sicuramente si parla di nuovi immigranti. Mi pare di capire che i background più richiesti sono quelli di tipo scientifico. Sì, direi di sì. Insomma, soprattutto la componente maschile del sito è composta da persone di profilo ingegneri, molti, come dicevo prima, ricercatori, postdoc che vengono all'Università di Monaco, che è abbastanza ambita, insomma, conosciuta. Nel campo femminile forse è invece dove c'è un po' più varietà. Conosciamo sicuramente persone che lavorano in banca, segretarie, traduttrici. Quando dici scappano dall'Italia, cosa intendi? Questo è un po' il tema di cui si parla spesso le volte che ci si incontra, magari davanti a una pizza. Molte persone non rimpiangono da un punto di vista professionale l'Italia, in questo senso molte sono venute via volentieri da realtà che non professionalmente non soddisfacenti, se non addirittura nell'incapacità di riuscire a trovare degli sbocchi soddisfacenti in Italia, e sono venuti a cercare la fortuna in Germania. E la Germania offre quelle risposte che l'Italia lavorativamente non dà? Io direi in linea di massima sì, assolutamente. Germania per conto mio si è dimostrata fino ad ora sicuramente una realtà da un punto di vista lavorativo molto valida. Io parlo molto anche con le persone e in generale c'è un livello di soddisfazione, soprattutto se confrontato all'Italia, molto alto. Quali sono le attività più tipiche di YOL Monaco? Tipica è quella di organizzare delle serate con cene. Noi facciamo anche, promuoviamo anche degli eventi, anche se in maniera più sporadica. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Monaco. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: quale ricetta proponete per evitare la fuga dei cervelli, ricercatori o professori dall'università italiana? Queste le vostre risposte. Nicola: cacciar via solo i baroni, indipendentemente dall'età. Gli anziani possono servire, ma solo quelli che hanno fatto ricerca, non quelli che hanno semplicemente fatto carriera. Aldo: non ci vuole un'intelligenza superiore per comprendere lo stato attuale dell'università. Molti talenti sono stati costretti ad allontanarsi, ma non credo che lavorino tutti in università. Credo che più semplicemente producano reddito nell'industria e nel commercio, nei più disparati paesi disposti a riconoscerne il talento. Finché il potere sarà in mano al polo geriatrico attuale, tutto orientato verso i propri interessi, nessuno si accorgerà della deriva che stiamo da anni percorrendo. E chiosa Martino: via i dinosauri! Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Stipendio, sistema sociale, meritocrazia, bilancio vita privata, vita lavorativa. Qual è, tra questi quattro punti critici individuati da Antonino Pizzuto, il principale fattore di attrattività all'estero per un giovane professionista italiano e perché? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva Matching, la prima piattaforma internet per avviare partnership tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.